forte, scompiglio i miei capelli. Sto tornando a casa e la strada è ancora lunga. Per passare il tempo cambio un po' che penso a te, a quello che fai quando non sei qui con me. Mi si affollano nel cervello mille mille idee. Penso anche a cose a cui non dovrei pensare. Cosa posso farci? Forse niente, ma è l'amore. Quindi lascio perdere e continuo a camminare. Provo inutilmente a lasciare i miei pensieri. Poi vedo una casa col balcone sulla strada e mi fermo a chiedere qualcosa per sapere se è meglio proseguire o svoltare al primo bivio. Entro e vedo tutti seduti su sgabelli. Questi sono quelli che han deciso di lottare, di cercare, di provare a vincere l'amore. Ma non è possibile, è una cosa da scartare. Sono tutti tristi, neanche uno mi sorride. Esco in fretta e ritorno alla mia strada e riprendo ancora i miei vecchi pensieri. Tanto non li posso perdere, sono tutti veri. Vedo finalmente da lontano la mia casa. La mia casa è il posto dove vivo insieme a te. Questo sogno intanto è solo un'utopia. Mi accontento di pensarlo, sono a casa mia. C'è un muretto e poi cancello e dentro tanti fiori. Poi c'è un viale e una porta, vieni entra pure. Vedi delle stanze tutte piene di dolore. Questa solitudine è causata dall'amore. Mentre l'orologio batte 7 colpi esatti, non capisci se viviamo un giorno oppure un anno. Qui la vita scorre come uno la sa usare. Mille volte avanti oppure indietro puoi andare. Puoi uscire, ti disperi, ma non serve a niente. Siamo qui da secoli e qui c'è tutta la gente. Dentro questa casa che diventa troppo stretta, quindi usciamo è meglio, c'è la vita che ci aspetta.